godo del tuo silenzio, godo quando ti sento venire giù dalle scale con in braccio tutto il tuo amore, fresco come basilico appena colto in mezzo al campo, fresco come un tulipano, una stella del firmamento. Godo quando ti arrabbi e difendi con i denti i tuoi gigli e cogli ogni respiro e fai coriandoli con i tuoi capelli. Godo quando mi parli, anche se non hai niente da dirmi, con il linguaggio dei tuoi segni tu mi regali tutti i tuoi sogni. Godo come un pazzo quando mi lasci bigliettini e mi dici amore mio, siamo insieme anche se lontani. Ti ho lasciato in frigo basilico, fragole e cioccolatini, e tutti i miei baci li conservo per questa sera quando saremo vicini. Scendo giù in cantina, che mi sembra un cantiere, dove metto le mie cose e non trovo mai, non ho proprio scuse. Sono disordinato, guarda qui che bella foto, quanto eravamo belli, quanto tempo è passato. E mi siedo a rivedere l'album dei nostri giorni e mi accorgo quante storie ci hanno reso ancora più forti. Tutte le nostre debolezze, le strade vinte, le strade perse per arrivare sino ad oggi, sposi come due amanti. Godo come un pazzo quando mi lasci bigliettini e mi dici amore mio, siamo insieme anche se lontani. Ti ho lasciato in frigo basilico, fragole e cioccolatini, e tutti i miei baci li conservo per questa sera quando saremo vicini. Chi si ama non invecchia, sui laghi della vita spicca il volo nelle alture, la seduzione è un'eterna conquista, non si arriva mai alla vetta ed è sempre una magica lotta, non c'è noia che affligga la strada di chi tiene la lampada accesa. Godo del tuo silenzio, godo quando ti sento venire giù dalle scale con in braccio tutto il tuo amore, fresco come basilico appena colto in mezzo al campo, fresco come un tulipano, una stella del firmamento. Godo come un pazzo quando mi lasci bigliettini e mi dici amore mio, siamo insieme anche se lontani. Ti ho lasciato in frigo basilico, fragole e cioccolatini, e tutti i miei baci li conservo per questa sera quando saremo vicini. Godo come un pazzo quando mi lasci bigliettini e mi dici amore mio,